La crisi attuale non è di tipo dialettico, è di tipo entropico. Cos'è una crisi entropica? Quella crisi che discende non tanto da un conflitto, ma dalla perdita di senso. Voi sapete che senso in italiano vuol dire direzione, non vuol dire solo significato. L'altra accezione della parola senso è la direzione, come quando si dice il senso del fiume, in quale senso scorre il fiume. Una società quando perde il senso del proprio agire, e in questo caso dell'agire economico, entra in crisi, però di natura entropica. Ora non ci vuol molto capire che le crisi entropiche sono molto più delicate e difficili da superare delle crisi dialettiche, perché mentre la crisi dialettica contiene sempre dentro di sé i segni del proprio superamento, non è così con la crisi entropica. Perché la crisi entropica è una crisi di senso e dunque per uscire bisogna restituire o ridonare o ricreare, a seconda dei casi, quel senso, quella direzione che per una ragione o per l'altra è stata persa. Ecco perché male fanno, questo lo metto come nota a piedi pagina, quegli economisti che continuano a riempire i nostri giornali facendo credere a chi non è addetto ai lavori che questa crisi è come quella del 29. È un errore gravissimo fare questo, perché la crisi del 29, lo dico per l'ultima volta, fu una crisi dialettica, una crisi dovuta a sottoconsumo e a mancanza di conoscenza. La crisi di oggi è di tipo entropico, dovuta a un sovraconsumo e soprattutto ad un eccesso di conoscenza però sbagliata. Tant'è vero che nella crisi del 29 ci vuole il genio di uno come Keynes a rimettere le cose in ordine, e ci scrisse sopra la sua general theory, la sua teoria generale, pubblicata nel 1936, proprio per spiegare. Oggi non c'è un problema di spiegazione. Il problema è che i modelli teorici di natura economica che hanno in qualche modo guidato le decisioni in ambito finanziario erano e sono sbagliati, contengono errori, alcuni dei quali di natura logica. E quindi non è una crisi dovuta a ignoranza, ma direi ad un eccesso di conoscenza, ma di tipo errato, sbagliato, eccetera. E allora la domanda adesso diventa: ma cosa c'è all'origine di questa perdita di senso, che a sua volta ha determinato la crisi, che è in un certo senso l'epifenomeno di un fenomeno più profondo che è l'insieme di paradossi di cui ho fatto parola prima? C'è, e qui troviamo quello che dicono, troviamo la risposta delle cicliche in questione, la avvenuta affermazione negli ultimi decenni, per intenderci 30 anni più o meno, 3-4 decenni, di una logica di separazione. Cioè dire, a livello da prima culturale, e la cultura qui è chiamata in causa, e i responsabili di coloro che in qualche modo si identificano con l'ambito culturale hanno un bel mea culpa da recitare questa cosa, perché da prima è iniziato il tutto a livello culturale, poi a livello culturale è passato a livello operativo fino ad arrivare ai livelli, alle masse, a livello popolare, di cultura popolare spicciola. E cioè si è affermata una logica di separazione che ha riguardato soprattutto tre ambiti. Primo, la separazione tra la sfera dell'economico e la sfera del sociale. La seconda, la separazione tra il lavoro e l'origine sorgente della ricchezza. Terzo, la separazione tra mercato e democrazia. Pochissime parole di illustrazione di queste tre separazioni. La modernità, consideriamo la prima, la separazione tra la sfera dell'economico e la sfera del sociale. La modernità, che si è chiusa non molto tempo fa, come sappiamo, cosa ci ha lasciato in eredità? Questo convincimento, questa idea fissa, che la sfera dell'economico è la sfera delle relazioni umane guidate da un obiettivo ben preciso, da un telos ben preciso, massimizzare la ricchezza o il profitto che gli si voglia, eccetera. E il criterio valutativo delle azioni umane in questa sfera è il criterio dell'efficienza, il cosiddetto ethos dell'efficienza. Cioè dire, solo coloro i quali superano un test, il test dell'efficienza, in qualche modo definita, uso il termine efficienza in senso lato, senza stare a precisare ulteriormente per ovvie ragioni di tempo, hanno diritto di partecipare alla e di entrare nel club, nel nella cittadinanza di natura economica. Per coloro i quali, per un motivo o per l'altro, non hanno questa capacità, vuoi perché poco dotati intellettivamente, vuoi perché affetti da handicap di natura fisica o per altre ragioni ancora, per costoro non c'è spazio in questa sfera e allora vengono questi spostati nell'altra sfera, che è la sfera del sociale. E la sfera del sociale ha come criterio, obiettivo scusate, quello della redistribuzione di quella ricchezza prodotta in questa sfera. Questa sfera produce ricchezza. La sfera del sociale si deve occupare e preoccupare della sua redistribuzione per raggiungere obiettivi di equità. E il criterio regolativo delle azioni nella sfera del sociale è il criterio della solidarietà. Questo convincimento ha finito col codificare quel modello di ordine sociale, cosiddetto modello dicotomico Stato-mercato. Al mercato affidiamo il compito di produrre ricchezza, quindi il mercato è il sovrano dell'economico, lo Stato è il sovrano del sociale, oppure, come il caso degli Stati Uniti, la società civile organizzata, il cosiddetto mondo del non profit, dal volontariato alle associazioni di vario tipo fino a fondazioni, il cosiddetto mondo del terzo settore. Quindi il sociale è presidiato in primis dallo Stato, che ha inventato in Europa il welfare state, non per nulla si chiama welfare state, state vuol dire Stato in inglese, quindi è lo Stato che è responsabile in primis del benessere, welfare, ok? E però in ultimi tempi, per tutta una serie di ragioni, si è aperto ai soggetti della società civile organizzata portatori di cultura, come appunto gli organismi di terzo settore. Ebbene, questa logica di separazione, le cicliche ci dice, è responsabile dei guasti che stiamo vedendo. Per cui abbiamo che nella sfera del sociale, siccome il criterio unico è quello della solidarietà, si investono, si utilizzano fondi, buona parte dei quali sprecati. Ma sprecati non sto parlando delle corruzioni, quello è l'aspetto meno rilevante, credetemi, tutti parlano di quello, ma sprecati nel senso che i soldi spesi nella sfera del sociale non raggiungono l'obiettivo. Questo è lo scandalo. Se avessimo più onestà intellettuale dovremmo avere il coraggio di dire questo. Non è solo perché qualcuno si appropria ed è chiaro che non deve farlo, ma soprattutto perché i soldi vengono, le risorse vengono utilizzate senza raggiungere l'obiettivo che è quello di soddisfare i bisogni, eccetera. Ecco allora la prima implicazione che emerge dall'enciclica è esattamente quella di riunire, cioè dire bisogna che l'efficienza torni a sposarsi come lo fu agli inizi, inizio vuol dire tanti secoli fa, all'epoca dell'umanesimo e del Rinascimento, quando l'economia di mercato nacque, e nacque qua, in Italia, non nacque altrove, di questo dovremmo essere un pochino o più di sano orgoglio dovremmo averlo, ma altrimenti perché siamo italiani, che gusto c'è? L'italiano, noi italiani, recidiamo le nostre radici, perché dobbiamo sempre importare dall'estero quello che gli americani o gli stranieri hanno imparato da noi. E quindi quando lo importiamo ad un prezzo maggiorato. Siamo furbi così, ma pazienza, speriamo tutti che le cose possano cambiare. E dall'altra parte bisogna che la solidarietà faccia conto con l'efficienza. Quindi riunire le due sfere vuol dire esattamente questo, che l'efficienza deve sposarsi con la solidarietà e la solidarietà deve sposarsi con l'efficienza. Non è tollerabile una solidarietà che diventi essa stessa autoreferenziale e che quindi si autogiustifichi nello spreco delle risorse. Questo non è accettabile. Anche la solidarietà deve essere efficiente, così come l'efficienza deve tenere conto della dimensione dell'alterità che l'altro è una persona umana, eccetera, e quindi le implicazioni che faccio. Ecco allora il primo obiettivo, ricomporre ciò che è stato divorziato. La modernità ci ha lasciato questo divorzio, che l'economico non ha nulla da a che vedere, gli americani che sono bravi nel coniare le espressioni, che cosa hanno coniato tanto tempo fa? L'espressione che è sulla bocca di tutti, business is business,